Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi puntata speciale della nostra trasmissione con un ospite d'eccezione. La fuga dei talenti, abbiamo scoperto, comincia a preoccupare anche i giovani imprenditori italiani. Nelle scorse settimane ne abbiamo parlato con il presidente dei giovani imprenditori di Assolombarda e con quello dei giovani dell'Ance. Oggi ospite ai nostri microfoni Jacopo Morelli, neopresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, che del tema giovani ha fatto un baluardo del proprio programma. Con lui in questa puntata interamente dedicata a come rendere l'Italia un paese per giovani imprenditori, evitando nell'espatrio, commenteremo la storia di un talento italiano che in California sta facendo crescere una propria startup innovativa. Si vola, sviluppa applicazioni mobile per cellulari come iPhone e ora anche Windows Mobile. Fondare la compagnia ha richiesto non più di una mezz'oretta grazie a uno dei tanti servizi online. Paolo Perazzo, 36 anni, è presidente e fondatore della startup Sivola in Silicon Valley. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Quale paese lasceremo ai nostri figli? In apertura l'interrogativo del governatore di Banca Italia Mario Draghi. Nelle considerazioni finali di martedì, nel mercato del lavoro c'è una vasta sacca di precariato, soprattutto giovanile, ed è indispensabile un riequilibrio, ha affermato. Resta intanto stabile al 28,5% il tasso di disoccupazione giovanile per l'Istat, ma crescono gli inattivi. E oggi approfondiamo la recente indagine Censis sui giovani demograficamente dimezzati in 20 anni, con pochissimi laureati, anche perché il tasso occupazionale di chi ha una qualifica accademica è inferiore di quasi 20 punti alla media europea e con una percentuale di inattivi per scelta tripla rispetto al vecchio continente. Questo il quadro, poco rassicurante. Esther Dini, responsabile del settore lavoro del Censis, ci spiega come abbiamo potuto perdere 2 milioni di giovani in 10 anni. Sicuramente, diciamo, un effetto un po' demografico di quel trend di invecchiamento della popolazione che sta un po' caratterizzando tutti i paesi europei. Diciamo che forse l'Italia per molti versi l'ha anche anticipato. Un dato che colpisce molto è, forse contraddicendo molti luoghi comuni, il fatto che noi abbiamo meno laureati degli altri paesi, giusto? Sì, questo è un dato che veramente colpisce. Abbiamo meno laureati un po' in tutte le fasce d'età. Noi abbiamo dai 15 ai 24 anni un 3,1% di laureati e tra i 25 e i 34 anni siamo al 20%. Pensi che in Francia sono il 42%, praticamente il doppio. Ma la cosa che colpisce è che, pur avendo meno laureati gli altri paesi, i nostri laureati lavorano meno che i coetanei, diciamo, degli altri paesi. Forse il dato più preoccupante che emerge da tutta la ricerca: abbiamo meno chance occupazionali per i laureati italiani rispetto agli altri paesi, ma addirittura meno chance occupazionali per i laureati rispetto ai diplomati o addirittura ai giovani che detengono un titolo di istruzione ancora inferiore. E questo ovviamente un po' attiene alle caratteristiche del nostro sistema produttivo. Sappiamo che solo il 13% dei posti che le imprese mettono a disposizione sono dei posti per laureati. Secondo lei questa bassa occupabilità dei laureati è all'origine anche di un espatrio dei nostri giovani qualificati? Sicuramente sì, è anche da notare però un altro dato. In Italia c'è sicuramente una alta propensione ad andare all'estero da parte dei giovani, ma non scordiamoci che è la più bassa in Europa. Il vero nocciolo della questione è perché l'Italia non riesce ad attrarre altrettanti giovani da paesi come la Francia, come la Germania, che invece attraggono tanti italiani. I ragazzi che non studiano né lavorano, voi addirittura stimate una percentuale 3 volte superiore alla media europea, non è un po' troppo? Sicuramente questo è il dato più preoccupante che emerge da tutta la ricerca, è veramente una percentuale molto alta. Sono giovani tanto al nord-est quanto al sud Italia, tanto le donne quanto gli uomini. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Silicon Valley, centro nevralgico dell'innovazione del futuro, nonché patria di molti giovani talenti italiani. Saranno i nostri futuri Zuckerberg? Nome: Paolo. Cognome: Perazzo. Età: 36. Città di origine: Villanova Monferrato. Studi: ingegnere delle telecomunicazioni, Politecnico di Torino. Anno in cui hai lasciato l'Italia: ottobre 2009. Per andare dove? San Francisco, California. Perché? Completare la mia tesi di laurea tramite un internship. Quale lavoro svolge attualmente? Senior Product Line Manager. Dove? Cisco. Tornerai? Mi piacerebbe tornare. Certo che qui le opportunità non mancano mai. Dopodomani me ne andrò da questi lidi. Cercherò asilo negli Stati Uniti e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello e ad Ancona è già pronto un bastimento che porterà il cervello. Stati Uniti come destinazione finale di Paolo Perazzo, come racconta Gappa in Cervello in fuga. Paolo, 36 anni, è imprenditore e senior product line manager per la multinazionale Cisco in Silicon Valley. Oggi una puntata davvero speciale che vi consigliamo di non perdere. Insieme ad uno dei nostri giovani imprenditori innovativi che stanno crescendo in Silicon Valley, e ospitiamo infatti anche il neo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli, cui do il benvenuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Tra poco con Morelli cercheremo di capire come può svilupparsi un ambiente imprenditorialmente fertile anche in Italia. Prima però in breve la storia di Paolo, cominciando da una considerazione, o meglio un augurio che tu sviluppi alla fine di una lunga missiva a giovanitalenti@radio24.it. Come ricreare qui quell'ambiente rinascimentale, altamente creativo e innovativo che contagia subito chi mette piede in Silicon Valley? Ce la possiamo fare, insomma, a cambiare il mondo, inseguire i sogni e creare il futuro con passione, partendo soprattutto dal nostro capitale umano? È stato il Rinascimento perché la Firenze del 1400 mi ricorda quello che la Silicon Valley è oggi, anzi Firenze era ben di più. E in Italia abbiamo proprio bisogno di quella stessa combinazione di talenti, capitali e ispirazione che fu origine di tale straordinaria rinascita culturale e scientifica. La tua storia ora, Paolo, ti iscrivi nel 1994 a Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino, verso la fine nel 99, l'opportunità di chiudere il periodo accademico in Silicon Valley, chi ti porta in California e per fare cosa? Professore del Politecnico Silvano Geis si trasferisce in Silicon Valley e offre ad alcuni degli studenti la possibilità di compilare la tesi con un internship in Cisco. Decido quindi di partire e ancora prima di laurearmi inizio il mio primo lavoro da ingegnere del software. Questo periodo come ingegnere del software si chiude circa un anno dopo e tu scegli di restare negli Stati Uniti, non come dipendente di Cisco, ma in una startup Andiamo. Allora, in breve, cosa produce, tra virgolette, Andiamo? Andiamo produce apparati per storage area networks, ossia le reti che permettono di memorizzare i nostri dati personali usati quotidianamente da banche, istituti finanziari, servizi di telefonia, enti di commercio. Andiamo viene infine acquisita da Cisco grazie al suo successo e nel 2003 torni in Cisco, dove cambi vari ruoli e cresci professionalmente. Attualmente di cosa ti occupi? Soprattutto ci vuoi spiegare nel concreto come funziona la meritocrazia americana, come si fa carriera al di là dell'oceano? Ora gestisco quell'intera linea di prodotti creata nel 2001, che fattura oltre $500 milioni di dollari all'anno. La meritocrazia americana: in una startup chi è bravo fa carriera in fretta senza tenere troppo conto di istruzione, esperienza o altri fattori. Nelle grandi compagnie invece le cose cambiano. Veniamo alla tua storia imprenditoriale, che è quella che ci interessa. Nel frattempo, appunto, tu hai acquisito una doppia veste, dipendente imprenditore, molto rara tra l'altro in Italia. Ti viene a un certo punto una nostalgia per la startup e ne fondi una, si chiama Sivola. Allora la domanda è: cosa produce Sivola? Soprattutto quanto tempo ci hai messo per aprire la tua impresa e quanti clicks online? Sivola sviluppa applicazioni mobile per cellulari come iPhone e ora anche Windows Mobile. Fondare la compagnia ha richiesto non più di una mezz'oretta grazie a uno dei tanti servizi online e spendendo solo qualcosa come $500-600. Il successo di Sivola vi coglie di sorpresa. Ci racconti in breve la scalata nei ranking internazionali delle vostre applications? La nostra prima applicazione, Socialize, voleva essere qualcosa di piuttosto semplice, un esperimento per poi tentare qualcosa di più serio. Oltre al prodotto iniziamo a fare parecchio marketing, alcuni blog iniziano a notare Socialize, la valuta come best ed entriamo nella classifica di social networking, appunto. Ma è solo l'inizio, la scalata continua fino ad entrare nella famosa top 100 delle applicazioni più scaricate al mondo. E adesso ha bussato alla vostra porta Microsoft, con la quale avviate da imprenditori part-time addirittura un progetto di partnership. In brevissimo, dici cosa è successo. Per il lancio del nuovo sistema operativo per cellulari Windows Phone, Microsoft decide di scegliere le migliori applicazioni per iPhone e contatta le rispettive compagnie per invitarle a diventare partner. Tra quasi 500.000 applicazioni, Microsoft sceglie proprio il Socialize. L'altra settimana il Socialize è stata presentata ufficialmente da Microsoft a Milano. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. La crescita economica si lega al successo delle nuove generazioni. Non ci arrendiamo dinanzi a un paese che non sembra o non vuole diventare un paese per giovani. Non ci arrendiamo dinanzi alla sensazione di un malessere diffuso e di un fatalismo rassegnato. Abbiamo le persone e le capacità per affrontare e vincere le grandi battaglie di un mondo globale. Ciascuna generazione ha diritto al futuro. Jacopo Morelli, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Il testo che ho appena letto sarà la base di discussione al prossimo convegno di Santa Margherita Ligure. Intanto ben due importanti associazioni di giovani imprenditori, ANCE ed Asso Lombarda, hanno organizzato nelle ultime settimane convegni sul tema restare o fuggire. Dall'Italia le chiedo: stanno scappando anche gli imprenditori giovani, magari quelli dalla maggiore carica innovativa? Italia molti imprenditori giovani rimangono perché qui fanno, oltre che una scelta di impresa, qualcosa anche di più alto, che una scelta di vita. Certamente non è facile rimanere, ma noi lo facciamo con grande passione e grande coraggio. Lei ha dichiarato: non è l'immigrazione, ma l'emigrazione, lo spreco di giovani talenti italiani, la vera ipoteca sul nostro futuro. Emigrazione di professionisti qualificati, aggiungo io, cui fa da contraltare un'immigrazione poco qualificata. Questo però non rischia di mettere l'Italia in una posizione difficile? La nostra grande sfida è quella di attrarre, più che di trattenere nei prossimi anni, cervelli e talenti, perché solo quando saremo in grado di fare in modo che questo sia il miglior posto dove vivere e lavorare, le persone non solo appunto verranno da noi, ma certamente vorranno rimanere. Paolo, tu tra l'altro metti in risalto l'ottima preparazione ricevuta in Italia, però dici, oltre alla teoria serve anche un di più, trasmettere una mentalità precisa. Quale, in due parole? La mentalità è fondamentale. Si comincia dall'avere questo spirito di imprenditoria, che sembra una parola grossa, ma alla fine è semplicemente il desiderio di fare qualcosa. Morelli, come presidente dei giovani imprenditori, ha fatto di scuola e merito uno dei punti cardine del suo programma. Cosa intendete fare in concreto? Vogliamo appunto che in Italia si inizi ad applicare standard internazionali di valutazioni, per cui le famiglie e i ragazzi possano scegliere in maniera serena, come in una, se vuole, scatola di cristallo, la scuola e l'università che produce maggiore preparazione e quindi produce maggiore speranza per il futuro. Paolo, tu metti in rilievo come sia la voglia di cambiamento che genera entusiasmo e fa circolare capitale nuovo in Silicon Valley, e non capitale di rendita, senza contare le vere e proprie infrastrutture di capitale. Allora, ci spieghi, Paolo, in breve l'importanza dei venture capitalists oltreoceano? L'accesso ai capitali qui è relativamente facile. Sono proprio questi venture capitalists, spesso ex imprenditori loro stessi, a ispirare e incoraggiare persone di talento a far partire un nuovo progetto. Morelli, possiamo farcela anche qui ad attivare queste infrastrutture per generare impresa giovane? Ma sì, assolutamente, guardi, è una questione di volontà, prima di tutto di volontà politica, e per questo noi come giovani imprenditori non solo non ci arrenderemo mai, ma ci batteremo soprattutto in questo triennio. E Morelli, oggi parliamo anche molto di imprese innovative, cioè chi le definisce 2.0, dove i nostri 20 e 30 anni potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Dall'altra parte ci sono a volte settori della nostra economia che vengono definiti un po' troppo maturi. Allora, non serve forse anche una nuova politica industriale che valorizzi questa new economy giovane? E voi giovani imprenditori intendete anche appoggiarla? Assolutamente, noi diciamo come giovani imprenditori siamo per valorizzare qualsiasi azione e attività che porti il paese nella parte alta, se vuole, dello sviluppo. Per avere un'economia avanzata servono chiaramente cervelli e servono scuole e università che li preparino al meglio. Domanda di rito per Paolo Perazzo: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io vedo un paese un po' in difficoltà, ad essere onesto, senza una chiara leadership e senza la proposizione di modelli positivi per i nostri giovani. Di sicuro alla nazione serve un respiro molto più globale e meno provinciale. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paolo Perazzo, 36enne presidente e fondatore della startup Sivola in Silicon Valley, ma anche Senior Product Line Manager a Cisco System. Paolo arriva in California per il lavoro di tesi, lì si ferma unendosi a un progetto di startup Andiamo. Con l'acquisizione da parte di Cisco, Paolo entra nel colosso delle reti con un ruolo di management, ma non gli basta. Nel fertile terreno della Silicon Valley sente presto nostalgia per le brezza della startup e dopo alcuni tentativi fonda Sivola, azienda che produce applicazioni per iPhone, da poche settimane in partnership con il gigante Microsoft. Ora Paolo è pronto per una nuova avventura nella quale intende coinvolgere anche cervelli italiani. Ci raggiunge nuovamente Lina Jacopo Morelli, neopresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, a cui giro subito una domanda da parte di Paolo Perazzo. Paolo. Morelli, il programma che lei propone mi sembra ottimo. Quali sono gli step pratici per realizzarlo in pratica e soprattutto quali sono le metriche che userete per verificarne i progressi e un eventuale successo? I programmi sono molto semplici. Da una parte noi richiediamo una fiscalità di vantaggio a favore del lavoro dei giovani e delle nuove start-up. La metrica è molto semplice: imparare e soprattutto verificare che le cose richieste, soprattutto alla politica, semestralmente, per esempio, vengano rendicontate. Morelli, quando ascolta le storie di giovani imprenditori italiani di successo all'estero, e sono certo che questa non è la prima che ascolta, cosa sente che manca qui in Italia per creare condizioni di impresa, se non simili, quantomeno comparabili? Quali ostacoli vi frenano? Per tutto sento un grande orgoglio come italiano che comunque un mio, diciamo, connazionale vada negli Stati Uniti e faccia molto bene, come prima cosa. Secondo, sento che dobbiamo liberare dalle catene le energie che opprimono le nostre potenzialità. La preoccupa vedere un'Italia che perde, dati Censis alla mano, 2 milioni di giovani in 10 anni, con un tasso di giovani inattivi triplo rispetto all'Europa, dove abbiamo solo il 20% di laureati giovani, i quali però presentano tassi occupazionali inferiori di 20 punti alla media europea. Cosa non funziona? Certamente non possiamo rimanere inerti rispetto a un dato così, però più che preoccuparmi, mi invita ancora di più e invita tutto il movimento dei giovani imprenditori a lavorare con maggior determinazione, perché il nostro paese, e è capitato tante volte nella storia, ha assolutamente tutte le capacità e le risorse per sapersi sollevare. L'importante è non arrendersi, non mollare e avere, come diceva Paolo prima, anche chiara una visione di leadership. Voglio però chiudere con una nota di ottimismo. Partiamo da Paolo Perazzo. Per esperienza personale posso dire che c'è un'elite generazionale effettivamente tra i giovani italiani all'estero. E ti chiedo, sono giovani che se tornassero potrebbero farsi anche classe dirigente, unirsi, unire le forze con chi qui lotta per modernizzare l'Italia. E tu personalmente cosa stai facendo per riconnetterti nel tuo piccolo col tuo paese? Ritengo che il bagaglio di esperienza accumulato all'estero in ambienti con mentalità e culture diverse possa di certo portare una ventata d'aria fresca in Italia. Per tornare al nostro piccolo di Sivola, abbiamo due di noi, Gianluca ed Andrea, che lavorano dall'Italia e sta funzionando tutto benissimo. Poi proprio in questi giorni sto valutando la possibilità di creare un nuovo ponte tra scuole italiane e il mio mondo. Idee, business plan, project plan per studenti in cerca di una tesi proprio come me 10 anni fa, ma questa volta senza la necessità di trasferirsi all'estero. I talenti li abbiamo, manca forse solo un po' di guida, di esperienza e, come diceva prima Jacopo, coraggio. Morelli, siete pronti a tessere una rete con questi talenti all'estero, spesso espatriati anche con un po' di disillusione, non è per fortuna il caso di Paolo, e siete pronti anche a cogliere i segnali di cambiamento e a farvi sempre più classe dirigente con loro? Questo assolutamente. Noi come giovani imprenditori di Confindustria abbiamo già in campo, le abbiamo già fatte nel 2009 con un G8 dei giovani imprenditori a Stresa, poi a Toronto, un network europeo che si chiama YES, più un network del Mediterraneo, che il cui acronimo è MAME, e quindi collegato con tutte le forze giovani dell'imprenditoria internazionale. Quindi assolutamente la nostra intenzione sarà quella di potenziarlo, magari anche con l'aiuto di Paolo. Per chiudere però una curiosità me la voglio togliere. Insomma, Morelli, diamo una risposta al dilemma di tanti giovani imprenditori e non: restare o andarsene? Certamente restare, lottare, impegnarsi per cambiare le cose. Grazie a Jacopo Morelli, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. E domanda finale di rito per Paolo Perazzo: allora, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Le esperienze all'estero sono senz'altro fondamentali per aprire la mente, per vedere realtà diverse, ma non devono diventare necessariamente una fuga o l'unica via d'uscita. Se proprio il lavoro manca prima di emigrare, si può anche provare, come discusso oggi, a crearlo con grande voglia di fare, entusiasmo, coraggio e rimanendo al passo con quello che succede nel mondo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi proseguiamo la nostra indagine sui programmi regionali dedicati al rientro dei nostri espatriati. Abbiamo scoperto che, al proposito, la Liguria ha una legge ad hoc. Ce la racconta Enrico Vesco, assessore all'emigrazione. È una legge che riconosce le associazioni dei Liguri che si costituiscono in tutti i continenti e mette a loro disposizione una serie di opportunità, di servizi per mantenere vivo il rapporto con la regione. Nell'ambito di questa legge c'è proprio anche un'opportunità che viene riconosciuta a tutti coloro che sono emigrati dalla regione di tornare a vivere in un comune della regione Liguria, e quindi a fronte di questa scelta si dà un piccolo contributo che è di fatto non possa andare ad attenuare quello che è l'eventuale impatto di un trasloco, di un trasporto di materiale affettivo e del trasporto vero e proprio. Insomma, quindi a quanto ammonta? Siamo a 1.350 euro ogni componente del nucleo familiare, insomma, quindi cumulabile per il numero eventuale di coloro che tornano a vivere e a prendere la residenza in un comune della regione. È uno strumento che ogni anno vede circa 80 persone in media, insomma, che la utilizzano e che quindi, insomma, tornano. Ma sul fenomeno della, diciamo così, fuga dei cervelli o fuga dei talenti recente, state pensando qualcosa? Indubbiamente, su questo stiamo lavorando molto, perché riconosciamo che sia una delle piaghe del momento per il nostro paese, insomma. E noi abbiamo sostenuto nei 5 anni dell'amministrazione passata un centro di eccellenza come l'Istituto Italiano delle Tecnologie, che appunto ha sede a Genova, e che è stato un motore inverso, nel senso che è riuscita a portare a Genova moltissimi giovani laureati di elevata specializzazione nelle nanotecnologie,